cos'è quest'estate di Elisabetta Fiorito. Buongiorno ai radioascoltatori, oggi ci occupiamo di Turchia, ma non solo, ci occupiamo anche di Libia, perché abbiamo con noi Benedetto Della Vedova, sottosegretario degli affari esteri. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno. Ecco, cosa succederà? Libia, si parla di 30 giorni di guerra, c'è un ruolo dell'Italia, daremo la base di Sigonella, e ci sono anche tensioni con l'opposizione, perché dicono non li ascoltate, fa un po' tutto il governo, si temono anche attacchi terroristici. Perché questi raid e perché il ruolo dell'Italia? Ma guardi, oggi pomeriggio ci sarà il ministro della difesa Roberta Pinotti che riferirà in aula durante il question time, quindi sul coinvolgimento attuale, presente e nei giorni a venire. Direi che è bene aspettare il ministro della difesa. Il ministro degli esteri Gentiloni ieri ha ribadito l'impegno dell'Italia a sostegno del governo di accordo nazionale di al-Sarraj, soprattutto per quanto riguarda il lato umanitario e sanitario, che sono due aspetti importanti della crisi in Libia, che riguardano innanzitutto i cittadini libici. L'intervento degli Stati Uniti per via aerea, ricordiamolo, che il presidente Barack Obama ha sottolineato potrebbe durare fino a 30 giorni, è volto a colpire, su richiesta del governo di accordo nazionale del presidente al-Sarraj. Questo è fondamentale anche in termini di legalità. Sì, ecco, però noi sappiamo che la Libia è divisa in due, si colpirà Sirte dove c'è l'ISIS, da una parte però Sarraj sta a Tripoli e invece c'è Haftar che sta a Tobruk, che non riconosce il governo di Sarraj. Quindi insomma c'è un po' di confusione. Ma guardi, il processo di ricostruzione istituzionale e politica libico è complicato da tempo, probabilmente dal minuto dopo in cui, a seguito dell'intervento occidentale precedente, probabilmente nessuno si è occupato con sufficiente lungimiranza di quello che sarebbe successo dopo. La posizione dell'Italia è sempre stata, in questi semestri, il sostegno al governo, alla costruzione prima di un governo di accordo nazionale, all'insediamento del governo di accordo nazionale a Tripoli, cosa che è avvenuta, e a far sì che questo governo diventasse il governo istituzionale di tutta la Libia. Questo aspetto, ovviamente, come lei, come gli ascoltatori sanno e lei ha sottolineato, questo aspetto non c'è ancora, non è un passo compiuto. Il generale Haftar si è tenuto fuori, ha un po' negoziato con una logica un po' dell'elastico, e fino ad oggi quindi la sovranità, chiamiamola così, del governo di al-Sarraj non si esercita su tutta la Libia. È evidente che il senso di questo intervento è prima di tutto sradicare o evitare il radicamento delle forze del Daesh a Sirte e in Libia, per evitare che l'indebolimento sul terreno nel fronte siriano iracheno possa portare, come molti temevano, molti analisti, molte persone sul terreno, potesse portare all'insediamento del Daesh in Libia come via di fuga e ripartenza. Ed è evidente che questo, peraltro, questo obiettivo americano, di questo intervento americano, è decisamente nell'interesse anche della sicurezza europea, in particolare italiana. Sottosegretario, quale sarà il ruolo dell'Italia? Faremo solo da base con Sigonella o parteciperemo agli attacchi statunitensi? Ma ripeto, questa è un'informazione che io rinvierei, non per reticenza, ma diciamo per dovere, all'intervento del Ministro della Difesa oggi pomeriggio. Noi abbiamo sempre avuto, poi possiamo discutere, c'è chi dice che facciamo troppo, chi dice che facciamo troppo poco, che siamo troppo esposti, poco esposti. Io tenderei però a dire con chiarezza che sarebbe ed è sbagliato legare la nostra posizione, la nostra esposizione a un un aumento o meno dei rischi di attentati. Questo sarebbe un esercizio strumentale, abbiamo visto. Cioè lei dice che non ci saranno. In Francia o in Germania, e che sono due paesi che hanno atteggiamenti completamente diversi, per capirci. Quindi evitiamo di dare alibi ai massacratori. I massacratori sono massacratori, se hanno un disegno politico di destabilizzazione e divisione dell'Europa tra paesi all'interno del paese, ma no, non c'è, drammaticamente non ci sono legami, come mettendo insieme i dati degli attentati è facile capire. Quindi non ci sarà secondo lei una recrudescenza o un possibile attacco perché noi diamo la base di Sigonella per attaccare la Libia, questo in sostanza? Finora, anche grazie al lavoro di polizia e dell'intelligence, la situazione italiana da questo punto di vista è quella che conosciamo. Non abbiamo subito attentati, nessuno ha mai detto che siamo però al riparo, ma questo è indipendente, ripeto, come dimostra il caso tedesco, questo è indipendente da quello che l'Italia fa sullo scenario medio orientale. Senta sottosegretario, un'ultima domanda sulla Libia, poi passiamo alla Turchia che è un altro fronte aperto. Che cosa pensa però di questa diatriba che c'è tra il presidente russo Putin e gli Stati Uniti? Cioè questo fatto che Putin dice stanno attaccando, ma non è giusto, non c'è stato coordinamento, insomma gli Stati Uniti hanno agito un po' per conto loro, invece poi l'ONU ha detto no, in realtà noi vogliamo sradicare l'ISIS, Daesh da Sirte, che ricordiamo una piccolissima parte che però è in mezzo alla Libia, e quindi l'attacco è giusto. Ma mi sembra strumentale, gli Stati Uniti avevano ampiamente informato anche in sede ONU, ma non solo, anche in sede bilaterale, di quello che stava per succedere, e l'intervento, come ha spiegato il presidente del governo di accordo nazionale al-Sarraj, è stato richiesto dalle autorità, e questo fin dall'inizio era inserito anche nelle risoluzioni dell'ONU, cioè che eventuali interventi avrebbero avuto la copertura del diritto internazionale solo e soltanto qualora fossero stati richiesti per ragioni di sicurezza interna dal governo legittimo. Passiamo invece sul fronte della Libia. Allora, abbiamo visto che della Turchia. Erdogan sta attaccando l'Italia. Intanto diamo il benvenuto a Marta Ottaviani, giornalista che scrive sia sulla Stampa sia su Avvenire e che è proprio specializzata in Turchia. Erdogan sta attaccando l'Italia, l'Europa, addirittura c'è uno scontro per il figlio indagato di riciclaggio di denaro a Bologna. E si apre quindi un altro fronte per Erdogan. Abbiamo visto poi ieri l'intervista di Lucia Goracci proprio al Reis, si dice così in turco, ma mi diceva Marta Ottaviani prima, turco. Che cosa succede in queste relazioni e che cosa succede poi sul fronte dei migranti? Ma guardi, l'Italia ha sempre avuto negli ultimi 15-20 anni, con l'alternarsi di governi diversi, di centrodestra e di centrosinistra, ha sempre avuto eccellenti rapporti con la Turchia e ha sempre avuto all'interno della discussione europea sull'ingresso della Turchia o meno, ha sempre avuto la posizione molto più aperta nei confronti della Turchia fino a tempi recentissimi. Noi sostenevamo l'apertura nell'ambito del negoziato della discussione sui capitoli che riguardavano libertà civili e giustizia e democrazia, sono quei capitoli di negoziato che tutti i paesi che sono entrati nell'Unione Europea hanno svolto il negoziato su questi punti, anche i paesi dei Balcani più recenti, e quindi credo che la posizione italiana sia da questo punto di vista limpida. Anche per questa ragione l'intervento, le parole durissime usate dal presidente Erdogan di recente nell'intervista che lei citava, sono del tutto fuori luogo. Sì, ma insomma ci dobbiamo occupare di mafia, ecco, questo ha detto Erdogan. Noi perché ci occupiamo di suo figlio? Noi abbiamo tanti problemi in Italia. Credo che il Presidente del Consiglio Renzi abbia risposto con abbastanza nettezza sul fatto che in Italia la magistratura non risponde all'esecutivo e conduce le indagini secondo le regole dello Stato di diritto e quindi è del tutto fuori luogo la richiesta, tantomeno quella, direi, doppiamente ingiusta di doversi occupare di più dei reati di criminalità organizzata. Insomma, ma che cosa comporterà? Cosa comporterà questa acredine con Ankara? Io mi auguro si stemperi, come si stemperi questa volontà che Erdogan sembra interpretare di aprire un contenzioso simbolico, propagandistico con l'Unione Europea, accusando i leader europei, in testa l'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, di avere reagito tardi, cioè non a tambur battente di notte al golpe. Nessuno dei leader europei, men che meno Federica Mogherini, ha avuto atteggiamenti reticenti, la condanna rispetto al golpe c'è stata. Mischiare la vicenda attuale e l'attenzione che l'Europa ha, e credo sia doveroso abbia, su quello che sta succedendo nel post-golpe, perché la solidarietà alle istituzioni e alla democrazia turca rispetto al golpe, ovviamente in un ambito di partnership, non può essere via libera a qualunque cosa venga fatto successivamente, dalla pena di morte, ad altro. Io credo che forse quello che noi dovremmo fare più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi è riconoscere, apprezzare il ruolo che le opposizioni interne, anche parlamentari, il partito di matrice curda per esempio, che le opposizioni hanno avuto nei confronti del golpe, la solidarietà, il senso di appartenenza alle istituzioni. E io mi auguro, ecco, che Erdogan, anziché preoccuparsi di quello che succede nelle vicende giudiziarie italiane, abbia un apprezzamento sincero e un coinvolgimento in questa fase e nelle fasi successive di tutte le opposizioni, che sono duramente all'opposizione di Erdogan, ma che sono state in modo limpido naturalmente all'opposizione dei golpisti. E oggi auspicano una ricostruzione, una ripartenza sulla base del rispetto delle libertà democratiche e dello Stato di diritto. Minacciare, come ha fatto Erdogan, che di nuovo possa essere messo in discussione l'accordo, tutt'altro che gratuito, come sappiamo, come è giusto che sia, l'accordo tra Turchia e Unione Europea sull'immigrazione, mi sembra, come dire, rischi di rendere ancora più faticose le relazioni. Il nostro obiettivo come Italia, avendo delle linee rosse come la pena di morte, per quanto sono tanti stati che hanno la pena di morte. La pena di morte è una linea rossa che giudichiamo invalicabile rispetto al processo di avvicinamento all'Europa e al negoziato per l'ingresso. Salve queste linee rosse, l'obiettivo e l'intento naturalmente è di tornare ad avere rapporti positivi con la Turchia. Allora ringraziamo il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova e diamo la linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? Fallito il golpe militare in Turchia, scontri nelle strade, 265 morti, poi la resa, 3.000 arresti. Erdogan al contrattacco, adesso i colpevoli pagheranno, faremo pulizia, rimossi 3.000 magistrati. Buonasera, edizione straordinaria del TG2, questa sera in Turchia c'è stato un colpo di Stato. È in corso un tentativo di colpo di Stato in Turchia da parte dell'esercito o di parte dell'esercito. Il tentativo di golpe, come sapete, è fallito. Il pugno di ferro del presidente Erdogan si sta abbattendo su golpisti e avversari. Andremo fino in fondo per sradicare il virus dei nostri nemici, ha detto, rilanciando anche i sospetti sugli Stati Uniti. E noi continuiamo a parlare di Turchia, vi ricordo gli sms 349-238-6666, anche 800-240024 il numero verde. Salutiamo Marta Ottaviani, giornalista specializzata proprio in Turchia, che scrive sulla Stampa e su Avvenire. Buongiorno Marta. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che tra le altre cose sta per uscire un tuo libro a metà settembre, Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, Texas Edizioni. Reis si dice in turco, giusto? È veramente sì. Un Reis, Erdogan, e che cosa sta succedendo da quelle ore drammatiche del golpe? Ma anzitutto il Reis, l'ho intitolato il Reis perché era il soprannome che i suoi compagni, noi di solito siamo abituati a conoscere Erdogan come il sultano, invece era il soprannome che i suoi compagni del Partito Islamico gli hanno assegnato sin dai primi anni della sua militanza, ed è diciamo un soprannome che gli calza a pennello. Ormai Erdogan è il leader incontrastato ma anche incontrastabile della nazione. Io ho ascoltato con grande interesse l'intervento dell'onorevole Della Vedova, che sicuramente è stato molto ponderato ed ottimista. Però è una Turchia questa che non ha assolutamente voglia di fare pace con l'Europa. Proprio oggi sul Sole 24 Ore c'è un'analisi molto interessante di Alberto Negri, che fa vedere, fa capire come i rapporti tra Turchia, Europa ma anche gli Stati Uniti potranno tornare alla normalità, ma sempre con un fondo di disagio alla base. La Turchia è sempre più determinata a fare una politica estera diversa da quella che l'ha contrassegnata fino a questo momento, dove l'Europa, se prima non era una priorità, adesso viene vista in chiave meramente utilitaristica. Tu oggi scrivi sulla Stampa un'analisi, cioè ci sono i mille fronti aperti del sultano, abbiamo sentito poi prima anche l'intervento che statunitense in Libia, però il sultano ha attriti con l'Egitto, con gli Stati Uniti e con l'Europa, è una situazione piuttosto rischiosa, anche quello che è successo con il figlio, che poi in realtà lui dice non lo fanno entrare in Italia perché è indagato di riciclaggio di denaro, è così Marta? Assolutamente, oltretutto il figlio ha anche rischiato di essere indagato in Turchia ai tempi della cosiddetta Tangentopoli turca. L'unico motivo per cui i giudici non aprirono il dossier a suo carico è che furono sospesi dalla magistratura i giudici che si occupavano dell'indagine. Quindi insomma, purtroppo i giri d'affari della famiglia Erdogan hanno sempre rappresentato delle pesanti zone d'ombra. Del resto lo ha detto anche il presidente russo Vladimir Putin, con cui proprio Erdogan il 9 agosto si appresta a fare pace. Putin aveva accusato la famiglia Erdogan direttamente di commerciare petrolio con ISIS e di trarre vantaggio da questi rapporti ambigui con lo Stato Islamico. Quindi insomma, sicuramente la magistratura italiana non si è inventata nulla di nuovo. Valeria Talbot, responsabile Osservatorio Mediterraneo ISPI, buongiorno. Qual è lo scenario? Perché abbiamo sentito anche Marta Ottaviani, il sultano, cioè ovvero Erdogan, sta litigando un po' con tutti, poi però rifà pace, no? Perché prima aveva litigato con la Russia, adesso ci fa pace, poi aveva litigato con Israele, poi ci ha fatto pace. Adesso i fronti aperti invece sono con l'Europa. Perché? Qual è il gioco? Ma i fronti aperti sono con l'Europa perché la Turchia in questo momento, nella questione migranti, è questa la posta in gioco, pensa di avere il coltello dalla parte del manico e ha fatto la voce grossa con l'Europa. Ma l'Europa, come ha sostenuto il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, non accetta quello che è stato definito il ricatto, tra virgolette, della Turchia, di sospendere la convenzione firmata lo scorso marzo, l'accordo per diciamo il reintegro dei migranti e per bloccare l'immigrazione clandestina attraverso la Turchia verso l'Europa. Diciamo blocco nel caso in cui l'Europa non mantenga la sua promessa di liberalizzare i visti con la Turchia, una questione che la Turchia chiede da anni, ma c'è un processo negoziale in corso e la Turchia ha ancora del lavoro da fare perché la liberalizzazione dei visti possa essere attuata. la Turchia ha firmato un accordo, ha dei criteri da ottemperare, non tutti sono stati adempiuti, quindi il lavoro rimane anche dalla parte della Turchia. Ciò non toglie che in Europa c'è preoccupazione per quello che sta avvenendo sul piano interno in Turchia, per il caos regionale in cui la Turchia si trova inserita e diciamo non ha anche alcune responsabilità nell'aver in questa situazione di disordine regionale. Ecco, Marta Ottaviani, c'è un radioascoltatore che ci dice: ma perché nessuno dice che Bilal, il figlio di Erdogan, esportava in Turchia il petrolio dell'ISIS? È così? Ma in realtà questo è quello che ha detto Putin. Poi Bilal però in un'intervista al Corriere della Sera, a firma di Viviana Mazza se mi ricordo bene, aveva smentito seccamente le accuse dicendo: ma che cosa state dicendo, io ho una società che costruisce uffici, facendo quindi capire che non aveva nulla a che vedere con questo commercio. In realtà, oddio, che ci siano dei traffici poco chiari, per usare un eufemismo, su quel confine, non solo di petrolio ma anche di armi e di terroristi, è noto da anni. Ho ascoltato con interesse l'intervento della dottoressa Talbot. Vorrei sottolineare che è vero che la Turchia deve ottemperare ad alcune condizioni per avere la liberalizzazione dei visti, però Erdogan ha già detto che non ha alcuna intenzione di farlo. Una di queste condizioni è la modifica della legge antiterrorismo, che Erdogan non solo non ha modificato, ha detto prima del mancato golpe che non lo avrebbe fatto, e adesso con uno stato di emergenza in essere in Turchia ci sono veramente poche possibilità che cambi idea. Il problema è che questa Turchia vuole trattare con l'Europa alle sue uniche condizioni. Vorrei anche sottolineare una notizia che non ha avuto molto eco sulla stampa, ma che per me invece è molto importante. Prima del golpe Erdogan si è detto disponibile a concedere la cittadinanza ai siriani. Il premier Binali Yildirim, pochi giorni dopo, ha detto che sarebbero circa 300.000 quelli eleggibili fino a questo momento. Ora, se l'Europa liberalizza i visti alla Turchia e questi siriani ottengono il passaporto turco, allora ditemi perché abbiamo fatto l'accordo a fare, posto che, secondo me, anche solo per una valenza etica e per rispettare i valori su cui l'Europa è fondata, quell'accordo non avrebbe mai dovuto essere firmato. Quindi tu dici attenzione, perché il fatto che possano far dare la cittadinanza ai siriani praticamente vuol dire un viatico dei profughi siriani, una nuova ondata di profughi in Europa. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, adesso fra un po' sarà con noi. Allora riprendiamo Valeria Talbot. Questa prospettiva che ci ha detto Marta Ottaviani è abbastanza inquietante. Senz'altro è inquietante per l'Europa, che ha appunto le sue difficoltà, come ben sappiamo, nel gestire la crisi dei migranti, ma è inquietante perché appunto, come ricordava la stessa Ottaviani, la Turchia vuole trattare con l'Europa alle sue condizioni, un'Unione Europea che comunque negli ultimi anni ha avuto una leva sempre. Ecco, abbiamo perso la linea con Valeria Talbot, però scusateci, nel frattempo cercheremo di recuperarla. Diamo il benvenuto a Sabrina Rossi, dirigente commerciale della France Press, responsabile per Turchia, Italia e Malta. Sabrina, tu eri a Istanbul o comunque in Turchia nel momento del golpe, quella notte. Che cosa hai vissuto? Dove eri? Che cosa è successo poi per rientrare in Italia? Buongiorno a tutti. Io ero nella regione di Balıkesir, che si trova nell'entroterra verso la città di Pergama, perché ero al mare e stavo terminando le mie Come molti vacanze. Italiani, eri andata in vacanza in Turchia, si va a Bodrum, si va sulla costa, no? Sì, si va sulla costa, però io vado in una zona dove vanno prevalentemente in vacanza i turchi, non ci sono stranieri, sono abitualmente l'unica straniera della zona, e questo è anche molto particolare. Il sabato 16 era il mio ultimo giorno di vacanza e avevo il volo da un piccolo aeroporto che si chiama Edremit, che è vicino all'antica città di Bergama, per volare poi su Istanbul e poi su Roma, ma sono rimasta bloccata, l'aeroporto l'ho trovato chiuso Era un tentativo che ho fatto comunque di andare in aeroporto per vedere com'era la situazione, ma la situazione era molto confusa anche lì. Da lì è successo, è diventato un'odissea ritornare in Italia? Sì, è diventato abbastanza difficoltoso. Siamo arrivati all'aeroporto, c'erano i militari, mi hanno detto che l'aeroporto era chiuso, non ci sarebbero stati né voli né niente, poi invece alcune persone dicevano di sì. Io, avendo lavorato 17 anni nelle compagnie aeree, ho capito che quando mi hanno detto che lo spazio aereo era stato chiuso totalmente, sono tornata indietro, sono andata sulla costa, ho capito che non si poteva volare, i voli non c'erano. Siamo tornati sulla costa e siccome da questa località che si chiama Aivalek, che sta di fronte all'isola di Lesbos, greca, abbiamo quindi deciso di prendere un piccolo traghetto, andare a Lesbos e poi da Lesbos piano piano verso Atene e verso Roma. Però quella notte è stata molto particolare. Ecco, quali erano le notizie che ti arrivavano? Cioè, che come si viveva in quel momento? C'era tantissima confusione perché i media turchi davano notizie frammentate e poi a un certo punto sono stati oscurati. Tu parli il turco, lo capisci? Lo capisco e lo parlo, sì. Noi siamo andati a cena la sera prima, quindi era venerdì, e in un piccolo ristorante in Turchia, nei piccoli ristoranti quasi tutti hanno la televisione perché guardano le soap opera o guardano programmi. Erano sintonizzati sulle news, esattamente su un canale naturalmente governativo e turco. E a un certo punto hanno mandato dei filmati di carri armati che stavano a Istanbul, esattamente nel centro di Istanbul, a Sultanahmet. Lì ho guardato e ho detto, ma che sta succedendo? Ho pensato anch'io che fosse un'esercitazione. E poi hanno tagliato subito il pezzo e sono passati sulle questioni di Nizza, sull'attentato di Nizza del giorno prima. E tu, lavorando in un'agenzia di stampa, hai capito che c'era qualcosa che non andava? Lavorando in un'agenzia di stampa ho capito che c'era qualcosa che non andava, quindi ho chiamato i miei colleghi di Istanbul, ho chiesto spiegazioni perché ho fatto un po' di zapping su questo televisore perché tanto il telecomando era disponibile, ho visto che c'era qualcosa che non andava, poi i canali turchi erano a reti unificate. Erano a reti unificate e davano tutti la stessa informazione. Poi ho saputo dai colleghi di TRT che c'è stata l'irruzione, li hanno messi tutti fuori, i militari li hanno messi tutti fuori dagli studi, hanno chiuso i canali per 2 ore, chiuso il satellite per 2 ore, ma quella è una storia che io non ho visto naturalmente, l'ho sentito raccontare dai colleghi. Resta un attimo. A quel punto ho capito che c'era qualcosa che non andava e i miei colleghi AFP mi hanno dato conferma e poi c'era anche i minareti che avevano alzato i volumi. Generalmente Erdogan ha questa abitudine quando deve dare delle comunicazioni molto forti di qualsiasi tipo, fa alzare i volumi dei minareti. Allora, resta con noi perché poi ti farò un'altra domanda. Nel frattempo abbiamo recuperato Valeria Talbot, responsabile osservatorio mediterraneo ISPI. Ecco, stavamo parlando della notte del golpe. A lei chiediamo, Marta Ottaviani, le rifacciamo la domanda, ci ha detto esattamente, attenzione, Erdogan vuole naturalizzare turchi dei siriani. Questo potrebbe essere, con la liberalizzazione dei visti tra Turchia e Unione Europea, un altro viatico a un'altra ondata di migranti. È così? C'è questo rischio, Valeria Talbot, responsabile osservatorio mediterraneo ISPI? Dicevamo che questo sarebbe un ulteriore problema, per una crisi che l'Europa, qualche crisi quella dei migranti che l'Europa ha dimostrato di avere difficoltà a gestire. E quello che vorrei sottolineare è che negli ultimi anni la leva dell'Unione Europea nei confronti della Turchia si è notevolmente ridotta. Nel corso del primo decennio del nuovo millennio la prospettiva dell'avvio dei negoziati di adesione della Turchia con l'Unione Europea era stata un'importante leva di riforme interne, di riforme politiche, di riforme economiche che appunto la Turchia aveva portato avanti proprio sotto il governo di Erdogan, per poter avviare i negoziati di adesione e che appunto poi presero il via nell'ottobre del 2005. Un processo che comunque si è dimostrato difficile, pieno di ostacoli e diciamo responsabilità sono dalla parte della Turchia ma anche dell'Unione Europea. La Turchia che comunque è forte anche di un consenso regionale prima dello scoppio delle primavere arabe pensava di poter fare a meno dell'Europa e si è guardata altrove. Quindi negli ultimi anni l'Unione Europea non è riuscita comunque a far leva sulla Turchia per diciamo far continuare quel processo di riforme interne che era stato avviato con successo ma che poi ha avuto uno stallo. Ringraziamo allora Valeria Talbot, responsabile osservatorio mediterraneo ISPIAC. Abbiamo sentito una testimonianza, quella di Sabrina Rossi. Chiediamo a Marta Ottaviani com'è la situazione adesso in Turchia con questa stretta di Erdogan, qual è la situazione poi del fronte laico, delle donne, c'è veramente questa imposizione sottile al velo? Allora, anzitutto quella sera non è che hanno alzato il volume dei minareti, hanno proprio fatto appello i muezzin ad andare in strada, lo ha fatto anche la Diglianetti invitando sì, i fedeli certo, a scendere a protestare. Certo, Sabrina poi, ci diceva quello che ha vissuto ovviamente. Sì, no, era per dare un'ulteriore informazione che c'è stato non solo proprio la preghiera diciamo tradizionale ma proprio diciamo uso civile del minareto. In secondo luogo la situazione in Turchia adesso è apparentemente tranquilla, se si va in Turchia anzi si vede la gente festante in piazza ormai da qualche giorno, il 7 agosto ci sarà pensate una manifestazione a cui dovrebbero partecipare 5 milioni di persone e che metterà fine alla cosiddetta tra virgolette resistenza della piazza turca durante il post-golpe, ma di fondo covano dei grandissimi disagi, quando non delle grandissime paure. L'opinione pubblica in questo momento è completamente appiattita sulle posizioni del presidente. L'opposizione sta facendo qualcosa per far capire sì, il golpe non ci sta bene, però non ci sta bene nemmeno la deriva autoritaria, ma è, a mio modo di vedere, un'opposizione piuttosto impotente, che ricordiamolo, non è mai stata particolarmente efficace in Turchia e questo è uno dei problemi, è uno dei motivi per cui Erdogan ha avuto anche questi risultati così strabilianti in termini di voti in questi anni. Voglio anche sottolineare che forse in questo momento l'opposizione più efficace è quella del leader curdo che sta mandando dei messaggi ben precisi, però è anche un leader che viene ignorato da Erdogan. Nei prossimi giorni ci sarà una riunione tra il Presidente della Repubblica e i tre principali partiti in Parlamento, quindi il suo AKP, i repubblicani laici del GEP e i nazionalisti del MEP, ecco, i curdi sono rimasti fuori dal tavolo. Come al solito. Non mi pare un bel segnale. Anche perché sappiamo che con la minoranza curda c'è sempre un problema in Turchia. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Come si vivono queste ore, soprattutto dopo l'attacco di Erdogan contro l'Italia e l'Unione Europea, che però segue a molti attacchi sul fronte europeo. Si teme un'altra invasione di profughi? Ma c'è imbarazzo evidentemente a Bruxelles e nelle istituzioni comunitarie, imbarazzo che in realtà è iniziato non appena c'è stato il tentativo di golpe. L'establishment comunitario ha capito fin da subito che il tentativo di golpe in Turchia avrebbe creato almeno due problemi. Il primo problema direttamente con la Turchia, come giudicare questo tentativo di golpe, dare il sostegno al governo del presidente Erdogan con la deriva autoritaria che lo sta caratterizzando da alcuni mesi, oppure dare il proprio sostegno ai militari che avrebbero in un modo o nell'altro ridato quella laicità al paese che la Turchia sta perdendo. Di fronte a questo dilemma la Commissione europea e in generale l'establishment comunitario ha cercato di trovare un giusto equilibrio non semplicissimo, e tanto che è stata criticata direttamente dalla Turchia negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Il secondo ordine di problema è invece molto più pratico. Fin da subito l'establishment comunitario ha capito che a rischio dopo gli eventi in Turchia è proprio un accordo firmato a marzo, un accordo che permette a Bruxelles di meglio gestire l'arrivo di rifugiati dal Vicino Oriente grazie proprio alla collaborazione con la Turchia. Allora questa intesa molto controversa ha permesso bene o male di frenare gli arrivi di rifugiati in questi mesi, ma è un'intesa che dipende da tutta una serie di condizioni e in particolare dalla concessione da parte di Bruxelles ad Ankara della liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi che vogliono viaggiare in Europa. Allora, per il momento questo nodo è ancora oggetto di trattative, ma è evidente che sta diventando un aspetto sempre più controverso, tanto che proprio ieri il presidente Erdogan per l'ennesima volta ha detto che senza la liberalizzazione dei visti l'accordo non entrerà pienamente in vigore. Ricordiamo che poi noi abbiamo dato sostanziali somme alla Turchia, mi sembra si parlava di 3 miliardi, non mi ricordo se era 3 miliardi, insomma non mi ricordo la somma esatta, ma insomma l'Unione Europea ha dato delle somme ingenti alla Turchia per tenere i profughi e per cercare anche di costruire dei campi affinché poi questi profughi, una volta che la guerra, quando la guerra finirà, possano poi ritornare in Siria, perché insomma c'è un accordo economico con la Turchia, giusto Beda? Sì, la cifra è di 3 miliardi di euro. Allora ricordavo bene. Di questi 3 miliardi sono stati versati un po' più di 1 miliardo per il momento, ma bisogna specificare che questi soldi non vanno direttamente al governo turco o alle istituzioni turche, sono soldi che vanno alle organizzazioni non governative che poi li impiegano per opere in Turchia, nella creazione di campi profughi e nella gestione di questi campi. Il denaro come tale non va direttamente al governo turco. Allora, grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles. Voglio fare un'ultima domanda a Sabrina Rossi. Quella notte ti sei sentita in pericolo? No, perché ho la fortuna e il privilegio di avere dei colleghi sia esperti dell'informazione sia in Turchia, cioè sia Istanbul che Ankara, quindi ero informata di quello che stava succedendo e probabilmente avendo anche l'isola di Lesbos davanti non mi sono sentita in pericolo, perché dove ero io era tutto abbastanza tranquillo. La cosa particolare è che tra l'altro, avendo ricevuto tutte le SIM card turche, un SMS da parte di Erdogan che chiedeva di scendere in piazza con le bandiere, e io ho un telefonino turco naturalmente, questo mi ha molto sorpreso, non mi era mai successo in vita mia, i turchi si erano riversati in piazza sì per manifestare e proteggere il paese, ma anche per svuotare i bancomat, gli ATM. Quindi erano loro molto più preoccupati di me e hanno svuotato tutti gli ATM di tutta la zona. Non si trovava il giorno dopo, sabato mattina, non si trovava una lira turca in nessun ATM. Era sabato, le banche erano chiuse, loro si sono preoccupati. Quindi quello che è successo poi in Grecia, ci ricordiamo, no, con la crisi. Grazie a Sabrina Rossi, dirigente commerciale della France Press, responsabile per Turchia, Italia e Malta, che si trovava proprio in Turchia nel momento del fallito golpe. Finiamo con Marta Ottaviani. C'è questa sensazione che questo golpe alla fine fosse un po' un finto golpe, è così Marta? Per una stretta contro le opposizioni da parte di Erdogan? Ma allora, finto non credo, perché comunque ci sono stati dei morti, il golpe c'è stato, era però un golpe ampiamente non solo previsto, ma di cui si sapeva l'imminente effettuazione. Proprio oggi sui quotidiani turchi c'è la notizia che i servizi segreti sapevano del golpe dalle 15. E nonostante questo, pensate, sia i servizi segreti sia il capo di Stato Maggiore, il capo dei servizi segreti e il capo di Stato Maggiore sono ancora al loro posto. che, voglio dire, dopo che il Presidente della Repubblica pare si sia salvato per soli 15 minuti, mi sembra una bella attestazione di fiducia. Un altro particolare molto interessante che getta un'ulteriore ombra sul fatto che forse si sapeva di questo golpe e li si è mandati avanti apposta in modo tale da poter fare un repulisti subito dopo, è stato il fatto che di solito quando viene fatto prigioniero il capo di Stato Maggiore o c'è un'immediata minaccia per la sicurezza della nazione, scatta un piano d'emergenza. Almeno questo prevedono, credo, le procedure più elementari in qualsiasi paese. Ecco, in Turchia non è scattato niente e il capo di Stato Maggiore, anche quando ha saputo del golpe, non ha dato ordine di reprimerlo subito. Insomma, non sarà stato un golpe fasullo, no, sicuramente, anche perché ci sono quasi 100 militari morti, però ci sono tante, tante cose che non tornano nella dinamica di quella notte. Allora, ringraziamo Marta Ottaviani, ricordiamo, scrive per La Stampa, per Avvenire, autrice del libro Il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? Cambiamo sicuramente argomento, ci accompagna la voce di Vladimir Luxuria in questa reinterpretazione di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli per parlare di unioni civili. Ricordiamo il numero verde 800240024 per chi vuole intervenire sul tema, oppure gli sms 349-238-6666, perché finalmente dall'entrata in vigore della legge si possono effettuare in alcuni comuni le unioni civili, perché ognuno un po' si regola come crede. Quindi il 5 giugno la legge è entrata in vigore, però prima di recarsi nel proprio comune e chiedere di essere uniti civilmente bisogna attendere i decreti attuativi che devono stabilire come gli ufficiali di Stato civile devono procedere per applicare la legge, e ci sono 6 mesi di tempo. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcuni comuni hanno già iniziato a fare le unioni civili, mentre altri sono ancora un po' in ritardo. Però noi vogliamo vedere come sta procedendo e come si sposeranno, se non si può dire si uniranno civilmente, perché ricordiamo la legge Cirinnà non equipara le unioni civili al matrimonio, alcuni omosessuali e non solo, perché ricordiamo le unioni civili riguardano anche le coppie eterosessuali. Intanto come ospite abbiamo Serafino Marco Fiammelli, ebreo riformato, residente a Roma, omosessuale, che si sposerà non solo civilmente in comune ma anche secondo il rito dell'ebraismo riformato riconosciuto dallo Stato di Israele e poi con l'unione civile riconosciuta dallo Stato italiano. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa succederà quando vi unirete civilmente tu e il tuo compagno? Che cosa succederà? Succederà che finalmente lo Stato italiano, la società, riconosce dei diritti e dei doveri alle coppie omosessuali. Chi come noi deciderà poi di approfittare di questa possibilità, questo sarà ovviamente per noi anche un'assunzione di responsabilità nei confronti della società. La società ci riconosce dei diritti e dei doveri, noi ce ne facciamo carico e come succede in maniera diversa per le coppie eterosessuali che si sposano, noi ci assumeremo delle responsabilità, appunto. di fronte allo Stato, di fronte alle leggi e di fronte agli altri cittadini. Tu ti sposerai con il tuo compagno, però anche religiosamente, quindi sì. Questa cerimonia avverrà sotto il baldacchino, come la tradizione ebraica, dove esattamente? A Roma, l'11 di settembre, in un bellissimo albergo del centro, sulla terrazza, al tramonto dell'11 settembre, che è una domenica sera. L'ebraismo riformato, come già hai detto, riconosce il matrimonio omosessuale esattamente come quello eterosessuale, quindi il rabbino celebrerà il matrimonio con lo stesso rito, ci saranno delle piccole modifiche ovviamente perché si tratta di due uomini anziché di un uomo e di una donna, ci sarà il baldacchino, ci sarà la Ketubah, che è questo certificato. Ma chi la porta la Ketubah? Perché la Ketubah generalmente, lo spieghiamo a persone che ovviamente non sono di religione ebraica, è il contratto praticamente l'uomo dà alla donna e sono gli obblighi del marito nei confronti della moglie. Tant'è vero che nei matrimoni ebraici la donna esce con la Ketubah fuori dalla sinagoga. Ecco, in questo caso chi la porta questa Ketubah? Tu o il tuo compagno? O ve la scambiate, essendo voi due uomini? Sì, ce la scambiamo. Questa è una delle piccole modifiche della cerimonia, ovviamente. Ce la scambiamo, anche questo, insomma, è un'assunzione di responsabilità religiosa e affettiva. La comunità ci riconosce questo diritto, privilegio per molti, e noi di fronte al rabbino, di fronte alla comunità, di fronte agli amici e di fronte a Dio, ci promettiamo di assisterci, di amarci, e tutte le cose che si promettono due persone che sono innamorate. Esatto. Tu fai parte di un'associazione che ha lottato duramente per queste unioni civili. Come si chiama l'associazione? L'associazione si chiama Magen David Keshet Italia, è il gruppo ebraico LGBT italiano, fondata insieme a un gruppo di carissimi amici un anno fa. Sì, abbiamo partecipato con tutto il movimento LGBT nazionale alle rivendicazioni durante il dibattimento del decreto Cirinnà. Noi sì, queste rivendicazioni le facciamo in ambito politico, sociale, in ambito anche, diciamo così, religioso, tradizionale dell'ebraismo. Quindi vogliamo essere un punto di riferimento anche per gli ebrei omosessuali che hanno bisogno di un punto di aggregazione, anche se semplicemente un punto di solidarietà con altre persone. Insomma, ricordiamo con altre che poi persone. Ricordiamo che l'ebraismo riformato sta un po' come se vogliamo fare un paragone col cristianesimo. Abbiamo i cattolici, abbiamo i valdesi, per esempio nel rito valdese ci sono già questi matrimoni omosessuali, e così ci sono gli ebrei ortodossi, quelli che appunto vanno in sinagoga, e poi ci sono più tradizionali, e invece ci sono gli ebrei riformisti che consentono il matrimonio omosessuale. Ricordiamo che però nelle unioni civili a Roma c'è anche una denuncia del fatto che il 22 settembre ci sarà la prima celebrazione. Ci sono due omosessuali che hanno denunciato che sono stati addirittura bloccati da un modulo, mentre un sindaco che si sposerà lui egli stesso con il suo compagno, sia nel ruolo di sindaco sia nel ruolo di sposo, è Giorgio Zinno di San Giorgio a Cremano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Cosa succederà quando si sposerà e come avverrà questa cerimonia, anche questa un po' particolare? Beh, diciamo, non posso autosposarmi. Non si può. Ah, ecco. Il dono dell'ubiquità non ce l'ho e né me lo permette la legge, quindi delegherò la mia funzione in quel caso, e in questo caso è a Monica Cirinnà, che ho sentito, e che sarà lei a ufficiare il matrimonio invece mia, diciamo. Quindi arriverà la deputata con la fascia tricolore, sarà lei che metterà la fascia tricolore. E lei quindi quando avverrà questo matrimonio? 24 settembre. A San Giorgio a Cremano. Sì, a San Giorgio a Cremano. E sarà il primo matrimonio omosessuale del suo comune? Ad ora sì, non abbiamo ancora prenotazioni di date diverse, può essere pure che qualcuno si prenoterà prima, dopo sicuro l'abbiamo uno il 36 ottobre e uno il 21 dicembre, se non erro, però prima ad ora nessuno ha fatto richiesta, può essere pure che ci sarà qualcuno prima di me, ma questo non, ad oggi non c'è nessuna richiesta. Ad oggi non c'è nessuna richiesta e questo suo doppio ruolo non le pesa, cioè non, i suoi concittadini non le fanno pesare il fatto adesso ti sposa la Cirinnà che è una deputata famosa, no? No, vabbè, no, questo, i miei cittadini sanno da sempre che io sono omosessuale, col mio compagno da 9 anni convivo e in qualche modo tutti quanti lo sanno, anche perché nelle riunioni ufficiali sono sempre stato con lui, quindi voglio dire, non è pesato finora questo, non penso che peserà il motivo del mio matrimonio, anzi, molti mi chiamano, si complimentano, ma voglio dire, il ruolo del sindaco è uno, è ovviamente quello là di dover dare le risposte ai cittadini e modificare e migliorare la propria città. La vita privata è un'altra, però ovviamente è anche una questione di civiltà, finalmente c'è una legge che ci permette di poterci unire in unione civile, oggi così si chiama, però per fortuna sono quasi tutti gli stessi diritti del matrimonio e quindi lo facciamo. E noi abbiamo in linea Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma. Lei, presidente, è stata accusata di aver favorito con le sue sentenze soprattutto le adozioni, la stepchild adoption, l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale. Lei ha sempre risposto: io ho fatto il bene dei ragazzi, dei bambini. Sì, io ho applicato la legge e applicando la legge ho, diciamo, riconosciuto un diritto del bambino ad avere una mamma e una seconda mamma, cioè ad avere due mamme o due papà. Non, l'interesse del bambino è coinciso con l'applicazione della legge, la legge lo ha consentito. Dottoressa, presidente, lei pensa che le unioni civili abbia questa grandissima lacuna che è stato proprio lo stralcio della stepchild adoption, perché sta avvenendo quello che è successo con la legge 40, cioè la legge per le inseminazioni artificiali, che poi è stata un po' smontata pezzo per pezzo dalla magistratura perché poi è stata dichiarata parte incostituzionale. Era meglio poi legiferare da subito e invece la magistratura sta intervenendo perché poi alla fine il Parlamento non è riuscito a fare una legge completa? Sicuramente sarebbe stato più opportuno legiferare in quel contesto. Per il momento, data il riconoscimento che la Corte di Cassazione ha dato alla sentenza di Corte d'Appello confermandola, penso che i tribunali per i minorenni possano andare avanti per la strada che ha segnato il Tribunale per i minori di Roma, però è chiaro che il legislatore dovrà intervenire molto più radicalmente e credo che lo farà nella revisione che sta operando, che ritengo stia operando nella legge sull'adozione, cioè nella legge 184 dell'83, già avuto modifiche con la legge 149 del 2001 e pare che ci voglia essere una modifica nel corso di quest'anno o nell'immediato nel 2017. Quindi in quel contesto credo che si arriverà anche a regolamentare l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale, come è giusto che sia. Presidente, lei quanto tempo è stata al Tribunale dei Minori di Roma? Quasi 8 anni, credo, 7 e mezzo. Ecco, riguardo anche le adozioni, e qui apriamo anche un altro tema, non solo per le coppie omosessuali, ma anche per i single e anche per lo snellimento delle adozioni per una coppia eterosessuale che magari è sposata e ci mette anni e anni per avere un figlio. Che cosa bisogna fare? Qual è il suo suggerimento al legislatore? Ma per velocizzare, si può anche velocizzare il procedimento, ma non è quello il problema. Bisogna rendersi conto che da una parte il giudice, il tribunale deve aiutare per quanto possibile le coppie problematiche o in difficoltà. E quindi il legislatore ci dice: tu devi aiutare questa coppia che ha dei figli e con i figli ha delle difficoltà fino al limite del possibile, senza pregiudicare il bambino. E poi dall'altra parte vuole che ci siano bambini adottabili. Allora noi prima di tutto dobbiamo desiderare che nel nostro paese sia sempre minore il numero di bambini adottabili, perché vuol dire che le famiglie sono famiglie responsabili. Però c'è sempre quella quota di famiglie non adeguate. E il procedimento può essere, a mio parere, come posso dire, più garantito, in modo che laddove c'è una sentenza di adottabilità si possa ritenere che davvero quella coppia non ce l'avrebbe potuta fare a portare avanti il suo bambino. Quindi più che in una velocizzazione, perché il procedimento deve essere un procedimento, come posso dire, fatto con responsabilità e coscienza dal primo all'ultimo atto, io credo che si possa meglio garantirlo attraverso una una collegialità piena sin dal primo momento. Ecco, perché oggi c'è un giudice, un unico giudice che porta avanti il procedimento e poi chiede il parere del pubblico ministero e lo porta a sentenza in un collegio. Io invece, per esempio, nel tribunale da me presieduto ho introdotto questo nuovo rito, cioè l'adottabilità viene fatta tutta collegialmente, tutti conoscono tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria dal primo momento, quindi quando si conclude, si definisce, c'è una maggiore consapevolezza delle persone, quattro persone, due giudici togati e due giudici onorari e un pubblico ministero, che dicono questo bambino è davvero adottabile. Io credo che questo procedimento, così come è stato introdotto da noi ma anche da altri tribunali che hanno seguito la mia linea, è un procedimento più garantito che porta a un maggior numero di adottabilità in perfetta, come dire, sintonia con tutto il dettato legislativo. La ringrazio. Intanto voglio chiedere a Fiammelli, prima di salutarlo, come abbiamo detto, baldacchino, cerimonia religiosa, però poi avete capito che a Roma arriva in ritardo la celebrazione, perché fino al 22 settembre non vi potete unire civilmente. Sì, sì, l'abbiamo capito, ce l'ha detto chiaramente Aurelio Mancuso, che sta tampinando gli uffici comunali e ci viene informati di tutto quello che succede. Sì, noi non abbiamo molta fretta, possiamo aspettare. Potete ancora aspettare qualche mese. E quindi noi adesso faremo questo matrimonio religioso che era già in programma da tempo e poi diventerete unite anche per legge. Ulisse ci scrive: avete trattato il tema delle unioni gay a senso unico senza una minima critica, è vergognoso. Ulisse, ricordiamo che il tema delle unioni omosessuali era stato poi indicato dall'Europa come una grandissima mancanza della nostra nazione. Giorgio Zino, sindaco di San Giorgio a Cremano, è caduto. E allora, Melita Cavallo, un'ultima domanda. Lei ha ricevuto molte critiche dal fronte cattolico, e questi bambini per i quali lei ha poi decretato la step child adoption erano a rischio? Cioè, il fatto che, per esempio, erano bambini che stavano benissimo, bambini amati, protetti, tutelati, seguiti a scuola, nel rapporto con gli amici, erano bambini felici, sereni, sorridenti, e le loro mamme o il loro papà erano persone responsabili per il ruolo educativo, persone diciamo che si erano posti tantissimi problemi prima di pensare a condividere il progetto di genitorialità, persone come raramente ne ho viste quando sento tante coppie che fanno domanda di adozione. Quindi persone responsabili nel ruolo educativo, bambini felici. Perché se avessimo trovato un bambino con problemi, probabilmente risalenti alla situazione familiare, non avremmo decretato l'adozione. Senta, Presidente, però abbiamo visto oggi, c'è sui giornali Vendola, che è Nichi Vendola, l'ex governatore della Puglia, che è al mare con il suo figlio nato però da un utero in affitto. Ecco, questo è il tema più spinoso riguardo a questa situazione. Lei, per esempio, quando ha dovuto magari dare l'adottabilità a un bambino in cui c'era il sospetto che fosse poi il risultato dell'utero in affitto, che cosa ha provato? Io prima di tutto escluderei avrei escluso che fosse un utero in affitto, perché si parla generalmente di utero in affitto senza capire che si tratta di gestazione per altri, che ci può essere la coppia che ha affittato l'utero, ha pagato, questo è un comportamento assolutamente riprovevole e non è stato il caso che mi si è prospettato, perché i due uomini avevano seguito il procedimento in Canada, che è un procedimento molto come devo dire, rigoroso e regolamentato nei dettagli. Non è possibile, è la donna che offre il suo utero, che sceglie la coppia a cui vuole donare questo bambino portandolo nel grembo. Quindi c'è bisogno sempre di un contributo biologico di uno dei due. La coppia mantiene i rapporti con la donna che ha portato in grembo il loro bambino, cioè ci sono la donna deve essere madre e il consenso dell'uomo. Insomma, lei aveva accettato, cioè, che non c'era stato reato in Canada, questa è la sostanza. No, non c'era stato reato in Canada, ma soprattutto quel paese, perché ci sono tanti paesi che praticamente permettono invece un procedimento assolutamente non rispettoso né della donna né quindi voglio dire, non l'avrei assolutamente decretata quella adozione se avessi avuto sentore che si trattava di una donna, come dire, comprata per questo motivo. Gianettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Che cosa comportano le unioni civili a livello di costi? Perché noi sappiamo che si potrà avere la pensione di reversibilità, ma il nostro sistema pensionistico se lo può permettere? Ma buongiorno a tutti. Innanzitutto credo che fondamentalmente le unioni civili, stando un po' al testo della legge, sono dei veri e propri matrimoni, uscendo un po' fuori dall'ipocrisia di fondo che è tipica di noi italiani, perché tolta l'obbligo di fedeltà e delle pubblicazioni, praticamente la struttura portante di questa legge è sovrapponibile a quella del matrimonio. Detto questo, e lo dico con soddisfazione, anche se poi tutto sommato nel nostro paese non si riesce mai a parlare in termini sostanziali, ma molto in termini terminologici, in modo tale che siamo tutti contenti. I diritti e i doveri delle unioni civili sono praticamente uguali, e quindi anche per quanto riguarda la pensione di reversibilità, l'assegno divorzile, l'assegno di mantenimento nel caso in cui divorzile, perché per effetti non c'è mantenimento della separazione, sono praticamente uguali, decisi dallo stesso giudice con la stessa procedura, identica, non c'è alcuna differenza. Per cui quando sarà il momento ci renderemo conto nel nostro tribunale, avremo divorzi sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali, sia quindi legate in matrimonio sia quelle legate da un'unione civile. Però l'unione civile è un legame che si può rescindere molto prima di un matrimonio, no? Ci sono solo tre mesi. La separazione non c'è, in effetti c'è una sorta di momento di pausa di tre mesi, si va direttamente al divorzio. Addirittura le unioni civili dal punto di vista proprio processuale sono ancora più snelle, forse ancora più moderne, più convenienti rispetto a quello che succede nel matrimonio, dove c'è ancora il doppio processo, prima la separazione e poi il divorzio, per cui si fa prima. Quindi molti eterosessuali poi sceglieranno le unioni civili, si faceva un po' una battuta. No, attenzione, non facciamo confusione, le unioni civili riguardano soltanto le coppie omosessuali. Attenzione, sento spesso dire queste cose, un conto sulle unioni civili riguardano solo ed esclusivamente il mondo degli omosessuali, poi ci sono le convivenze di fatto, sono un'altra cosa, ma che non hanno niente a che vedere con le unioni civili, sono praticamente una minima regolamentazione di coppie eterosessuali, ma che le quali senza i patti di convivenza non hanno praticamente quasi alcun diritto. Per cui sono due cose distinte e separate, soltanto se sei dello stesso sesso puoi celebrare un'unione civile, altrimenti se sei eterosessuale o ti sposi oppure convivi, ma con i patti di convivenza che possono essere redatti da un avvocato o da un notaio. Allora ci dicono anche i nostri radioascoltatori, Roberto Feltri, un ebreo gay, un sindaco gay, non c'è nessun contraddittorio, noi volevamo fare una puntata di informazioni di quello che sta succedendo in Italia. Ringraziamo Gianettore Gassani, linea alla regia. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare brevemente di unioni omosessuali. Ci sono molti sms, c'è qualche critica appunto proprio per le domande che abbiamo fatto a Melita Cavallo, l'ex presidente del Tribunale dei Minori di Roma, sull'utero in affitto. Alberto da Milano dice: anche la rumena in strada sceglie volontariamente di concedersi, ma è sfruttamento. E poi altri che scrivono: attenzione, se si dà la possibilità di fare la stepchild adoption per persone che hanno preso comunque l'utero in affitto anche in Canada è fuori dalla legge. Abbiamo a questo proposito una radioascoltatrice, Daniela da Milano. Che cosa ci vuole dire? Buongiorno, dunque intervengo volentieri nelle vostre trasmissioni perché sono sempre grazie. Di interesse globale. Dunque io sono una docente, quindi non ho esperienza di leggi, ma ho esperienza trentennale con i ragazzi. Non mi trovo d'accordo con la Presidente, che peraltro sicuramente avrà agito secondo coscienza, secondo la legge, secondo tutto quello che volete, perché l'esperienza italiana non è questa, voglio dire. Se certe cose si possono fare in America, in altri stati che sono cresciuti in altro modo, socialmente parlando, l'Italia è ancora immatura sotto questo punto di vista. Per noi la famiglia è uomo e donna, mamma e papà. Questa è la sua opinione. Io ho dato le schede a giugno. I genitori dovevano, io insegno la scuola media, dovevano firmare genitore 1, genitore 2, ma io ho avuto più contestazioni che firme. Voglio dire, dare un figlio, ecco, affidare il figlio, la Presidente prima diceva ho fatto il bene dei bambini, non ha fatto il bene dei bambini, noi abbiamo un caso nella scuola, è il caso del paese, cioè non è il bene del bambino, perché il bambino non si trova a vivere una normalità. Io non metto in dubbio che le due donne amino il figlio, i due uomini amino il figlio, ma non spetta a me giudicare questo. Ma non è il bene dei bambini, assolutamente. Grazie Daniela da Milano per il suo intervento, la sua opinione. Franco da Roma. Sì, buongiorno. Volevo solamente anch'io, a parte questa signora che ha detto delle cose così sagge, così serene, quindi così lei operative. No, io le dico subito. Tentare di rappresentare all'esterno tramite Radio Anche 24 un qualche cosa che noi dobbiamo accettare e recepire come se fosse un fatto normale è controproducente, non è questa una forma di educazione. Eventualmente ci si arriva molto ma molto gradatamente, non è così che è un periodo, abbiamo avuto per 4 mesi solamente la radio, la televisione parlare solo dei gay, oggi continuiamo in questo modo. Ma dinanzi a disastri così come abbiamo non solo in Italia ma nel mondo, noi come paese ci stiamo arroccando su cose fuori posto. Però questo è un tema di diritto, no? Non pensa che sia... Sì, ma non ci sono dubbi, sono anch'io un docente proprio di materie giuridiche, quindi se figuri lo dica a me. Ma non si può assolutamente, anche questa Presidente che ha parlato poco fa, che mi pare che è andata in pensione, ha completato il suo iter dicendo ho fatto questo per il bene del bambino. Sono cose così innovative che prima di dirlo deve vedere durante l'arco di tempo cosa succede. Quando c'è un processo di tipo storico per poter valutare, non si può una volta dire sono brava e una volta meno bravo. Quindi aspettare, vediamo quello che succede, lo vediamo con le adozioni normali, purtroppo che dopo 10-15 anni questi se ne arrivano perché dicono io qui non ci voglio stare. Quindi dice già questo. Difficile quello, figuriamoci l'altro. Grazie Franco, ricordiamo buona giornata anche a lei. Gulli che ci dice un bambino ha sempre una madre e un padre, insomma è un tema che divideva, ma adesso c'è un altro tema che vogliamo affrontare. sande azul. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Riconoscete questo leitmotiv di tanti anni fa, i Righiera, Vamos a la playa? E noi alla playa raggiungiamo, che è con noi oggi, l'autrice di Single, una rubrica in, sul Corriere della Sera. Lei è una, in realtà è una giornalista economica, ma si occupa anche di società. Buongiorno Antonella Baccaro. Buongiorno, eccoci. Allora Antonella, tu hai scritto un bellissimo articolo, Vacanze da soli, un rischio che nessuno si vuole prendere. Andare in vacanza da sole d'estate non è mai stato così problematico. La domanda si pone, perché? Ma perché, diciamo, alle normali complessità del viaggio da soli, da sole in particolar modo aggiungo, che ci sono, quest'anno c'è un fattore sicurezza che viene percepito, o insicurezza che viene percepito un po' di più. Quindi se l'insicurezza normalmente accompagna il single nella scelta di una vacanza in solitaria, quest'anno il rischio che c'è, che è emerso dagli ultimi eventi tragici che si sono verificati anche in mete consuete delle nostre vacanze, aggiunge un aspetto ulteriore di complessità che va risolto. Quindi chi parte da solo, perché ci sono i single che vanno in vacanza magari in gruppo, tu stai parlando di persone che magari si trovano a voler proprio fare un viaggio da solo, un po' avventuroso, e questi allarmi terrorismo inibiscono questa possibilità. Sì, io non considero, non è che non valuto il fatto che la vacanza da solo in solitaria sia davvero una esperienza poco diffusa rispetto alla media, però ce ne sono parecchie di persone. Nella mia esperienza del forum che organizzo insieme alla rubrica e nel quale vengono raccolte un po' le esperienze di chi mi scrive e chi chiede consiglio, chi chiede amicizia, chi chiede amore, eccetera, eccetera, c'è anche chi chiede in questo periodo una compagnia per il viaggio o un consiglio per viaggiare da soli, e sono sempre più le donne, ed è questo anche il punto. Cioè le donne che si avventurano in un viaggio in solitaria sono aumentate nel corso degli anni in cui ho seguito questo fenomeno, e naturalmente tutto questo era consentito dal fatto che ormai esistono possibilità di questo tipo in strutture che sono segnalate in particolar modo, particolarmente woman friendly per esempio, o single friendly anche. E anche dal fatto che viaggiare comunque anche da soli in una macchina, farsi un giro un po' avventuroso, eccetera, era diventata una possibilità acquisita. Adesso tutto questo si è un po' ristretto come ipotesi, come orizzonte. Vedo molta difficoltà e vedo anche il tentativo, e questo lo verifico tutti i giorni sul forum che seguo, di aggregarsi intorno ad un'idea magari o a qualcuno in particolar modo. Quindi si preferisce magari mettersi 4-5 singoli insieme e tentare un viaggio, però non è la stessa cosa che andare da soli. Oltretutto nei viaggi si litiga, Antonella, si rompono amicizie, si rompono anche storie d'amore, per cui figuriamoci le amicizie, o sbaglio? Sì, devo dire che però io consiglio sempre, ho sempre consigliato, malgrado diciamo la difficoltà appaia difficile, fare proprio questo tipo di vacanza per un single. Cioè il massimo del mettersi alla prova per un single è quello di fare una vacanza da solo, cioè senza portarsi un amico dietro, un fidanzato, ovviamente il single non lo fa, in un gruppo di sconosciuti. Perché? Perché questo mette il single un pochino alla prova rispetto a un atteggiamento che normalmente assume nella vita di autoreferenzialità. Certo che è un rischio, però è anche vero che si scoprono molte cose, perché dal contatto con gli altri, dal dover mediare giornalmente su piccole cose che fanno parte della quotidianità di un viaggio, ci si accorge anche di alcuni difetti che magari non si vedono più, perché spesso al single fugge lo specchio davanti a sé, cioè è lo specchio di se stesso. E dunque a me è capitato, io lo faccio spessissimo, di andare da sola in viaggio con sconosciuti in un gruppo organizzato, però ben organizzato in maniera tale che non ci siano grosse sorprese, di trovare delle parti di me che non avevo mai individuato, e in più di fare delle amicizie, perché poi il single non è che deve restare single e deve per restare tutta solo la vita. Single no. È una cosa, solo è un altro, siamo una distinzione sì. Fondamentale. Cioè, single può essere anche una scelta. Gianna Schelotto, scrittrice, psicologa, psicoterapeuta della coppia, è uscito un mese fa il suo ultimo libro, Chi ama non sa, di Rizzoli. Abbiamo sentito Antonella Baccaro, che è autrice di questa rubrica che oramai è diventata un po' un punto di riferimento come Carrie Bradshaw in Sex and the City, però a livelli un pochino più alti. Ecco, Gianna Schelotto, che cosa succede quando un single decide di andare in vacanza? Beh, naturalmente dipende molto dal tipo di single. Molte, io trovo nella mia, diciamo, nel mio osservatorio, che è statisticamente limitato naturalmente, però trovo che molte donne decidono di fare questo viaggio, il primo viaggio da sole, decidono di farlo come una messa alla prova di se stesse. A questo punto anche la paura degli attentati, la paura delle brutte avventure nelle quali si può incorrere, diventa una specie di lievito. Cioè, se mi devo mettere alla prova, se devo fare questa cosa così difficile, così avventurosa, devo proprio provarmi. Ho visto casi nei quali più era difficile la situazione, più si sentivano contenti di farlo, e comunque quasi si costringevano a farlo. È come se dovessero fare un salto per loro, spesso loro dicono, per riprendersi la libertà, ma non solo la libertà da vecchi compagni, da situazioni che non amavano, ma la libertà da se stessi, cioè dalla propria idea di se stesse che avevano. Questo è un fenomeno abbastanza recente. Io sono molto d'accordo con Antonella, perché è una cosa che sta esplodendo adesso. Cioè, è sempre più un effetto poi femminile, quello di liberarsi da questa struttura mentale che bisogna trovare il principe azzurro, poi sposarsi, fare figli. Insomma, la nostra generazione è evoluta, e quindi ci sono sempre più donne di 40-50 anni che magari, come dice Antonella, vogliono essere single, è così? Sì, e le dirò di più. Vogliono essere libere, non vogliono fare la spesa per il marito, queste cose un po'. Certo, ma dirò di più, la cosa che ultimamente, non so se Antonella ha la stessa mia sensazione, ultimamente le donne sono sempre più avanti negli anni, cioè sono donne di 60, addirittura 75 anni. Ho visto una signora che a 75 anni ha detto a suo marito: io voglio prendermi quello che resta del giorno. Ed è partita da sola, è andata ad abitare da sola ed è partita da sola. Sono abbastanza frequenti ultra sessantenni che si lasciano alle spalle matrimoni che col tempo si sono deteriorati, situazioni familiari ormai risolte, e che decidono di partire da sole. E Antonella, qualche volta addirittura di andare a vivere da sole. Antonella, è così nella tua esperienza? Sì, assolutamente. Io, diciamo, vedo delle fasce di età abbastanza chiare davanti a me, insomma, quelle meno che frequento in questo modo. Cioè, sui 30 e 40 anni la percezione delle singolitudini crea una certa inquietudine, soprattutto nelle donne che vogliono poi creare una famiglia, e per questo la vivono molto male, cercano di uscirne, quindi non l'accettano mai abbastanza, e forse hanno anche ragione, perché pensano di avere più prospettive di quante ne possa avere una donna più adulta. Intorno ai 40-50 anni spesso la singolitudine è di ritorno, ed è un percorso doloroso di chi sta uscendo da una coppia e deve riaccettare se stessa e ritrovarsi, e anche qui, diciamo, è un po' affannosa la situazione. Certo, ce ne sono molte di donne che si affrancano da sole da una situazione di coppia, molte la subiscono perché i coetanei di quell'età sono molto attivi nel cercarsi una compagna, spesso più giovane, ma questo è tutto un altro discorso. Cosa succede? Quando si scavalla quell'età, sono spesso le donne poi a fare quel passo, perché all'età di 60 anni e passa sono un po' più attive degli uomini, c'è un salto ulteriore. Io vedo una consapevolezza, una forza d'animo, una capacità di organizzarsi nelle donne di quell'età che non vedo negli uomini, ed ecco che scatta questo ulteriore fenomeno, che socialmente è anche rilevante ed è anche, diciamo, dal punto di vista sociale, economico, preoccupante. Cioè, io lo guardo con favore dal punto di vista emotivo, personale, ma dal punto di vista sociale è un campanello d'allarme che qualcuno dovrebbe un attimo ascoltare, perché si creano delle situazioni a volte un po' complicate di assistenza, di aiuto a queste persone che poi rimangono realmente sole. Allora, ringraziamo Antonella Baccaro, ricordiamo, giornalista economica, come primo input del Corriere della Sera, ma anche autrice di una colonna molto molto seguita, Single, sempre sul Corriere della Sera. Grazie Antonella, linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare di vacanze per single, il single che va in vacanza, e molti radioascoltatori ci scrivono, alcuni un po' critici, dicono viaggiare da soli è molto triste e squallido. Poi alcuni sono un po' più goliardici e dicono sì, le cicalone vanno all'estero perché tanto il marito magari è fuggito con una persona più giovane, con una donna più giovane. Simona Colombo, direttore di Dove, buongiorno. Simona Tedesco, grazie per il Colombo perché evoca il viaggio. Ma abbiamo fatto questa piccola gaffa. Simona Tedesco, direttore di Dove, in viaggio come Cristoforo Colombo, mettiamola così. Esatto. Come sta aumentando questo fenomeno dei singoli in vacanza, e se poi tour operator si stanno un po' adeguando? Perché la mia impressione è che, a parte i tour operator storici dei viaggi single tipo Avventure nel Mondo, molto spesso il tour operator classico in realtà fa pagare il supplemento per la camera single, insomma fa di tutto per scoraggiare che all'interno di un gruppo arrivino delle persone che viaggiano da sole, magari sì single ma in coppia con un'amica, per dire, no? Ma intanto i tour operator si stanno un po' adeguando, anche perché questo è un mercato comunque che muove 7 miliardi di euro l'anno, quindi cioè, è un mercato che effettivamente può essere anche interessante da un punto di vista economico, quindi adeguarsi alle esigenze dei single effettivamente ha un obiettivo di business interessante. Sono sempre di più i single che viaggiano, anche perché sono sempre di più i single, anche in Italia, anche single di ritorno, come si suol dire. Quindi in realtà è un mercato molto, molto interessante, florido, e devo dire sì, sicuramente oggi i single trovano delle offerte diverse soltanto rispetto a qualche anno fa, e quindi anche le mete a cui possono accedere, possono andare, possono essere anche ovviamente diversificate rispetto alle loro esigenze, anche se come tutti oggi noi viaggiamo più per cercare come dire, di viversi delle esperienze piuttosto che mettere delle bandierine nei luoghi nel mondo. Ecco, un viaggio single dove si prende, che cosa succede? Qual è l'operator classico che ci dice subito no, c'è il supplemento della camera single, è meglio evitarlo perché si capisce che saranno tutte coppie, sì, in quel viaggio. Esatto, perché è meglio comunque, come dire, il consiglio è quello appunto di trovarsi, a parte che appunto molto spesso di trovarsi il tour operator ovviamente che risponde alle esigenze. Quest'anno i viaggi dei single, la tendenza è rispecchia quella degli italiani che hanno scelto, comunque per il 64% stanno scegliendo l'Italia, quindi anche i single stanno rimanendo in Italia con la Sardegna, la Puglia, la Toscana in testa, ma sicuramente con luoghi italiani, ma perché questa è una tendenza dei nostri connazionali. In questo momento la paura è terrorismo? Questo sicuramente, perché ha ovviamente accorciato tutte le distanze, ha chiuso parecchi paesi nel mondo, e quindi l'Italia è comunque la meta preferita, con l'80% che sceglie comunque il mare. Ma anche l'estero, comunque se parliamo sempre di single, le mete ancora in cima alle classifiche sono proprio un po' quelle classiche, cioè la Grecia, la Spagna con Ibiza, l'America, oppure magari anche le crociere, perché comunque anche le crociere, cioè l'idea è quella comunque anche del single che sicuramente non in maggioranza, ma oltrepassa i confini nazionali e va a farsi dei bellissimi viaggi di esperienza. E a questo proposito, infatti, noi sul nostro giornale che abbiamo in edicola adesso, che è uno specialone con i 10 viaggi da fare una volta nella vita, infatti rispondiamo a questo tipo di esigenza, ovviamente non solo per i single ma per Dove, tutti. Dove? Allora, noi abbiamo fatto, esatto, su Dove questo mese, questo, in edicola. Questo mese è il nostro numero di agosto, che è un numero specialissimo. Monica Pelliccioni, titolare di Travel Single, agenzia specializzata in viaggi per single. Avete anche un sito www.travelsingle.it. E che cosa succede? Io sono single, mi voglio prenotare un vostro viaggio, e che offerte mi date? Allora, io stavo sentendo e volevo intervenire riguardo il problema dei supplementi singola, le supplementi, nel senso che è vero che le strutture le applicano, perché è normale che i villaggi non ti faranno mai, cioè non ti daranno mai una singola gratis a luglio o ad agosto, perché comunque è alta stagione, però non è un problema, perché noi comunque provvediamo ad abbinare. Se mi chiama un ragazzo da sola che dice ma io non voglio pagare 500 euro di supplemento singola, cioè in realtà non è un problema, perché lo abbiniamo con un altro ragazzo coetaneo, perché noi comunque dividiamo per fascia d'età. E dello stesso sesso? Dividiamo per età, quindi noi li organizziamo, cerchiamo dei villaggi, proviamo comunque a cercare dei villaggi in Italia per adulti, e ce ne sono pochissimi, perché c'è una ricerca, diciamo, spasmodica nella fase di programmazione che inizia intorno a febbraio, cioè per quanto riguarda la stagione estiva, cerchiamo villaggi che sono i più graditi dai single, senza famiglie, senza bambini. Sono pochissime strutture, ce n'è una in Salento che è la più famosa, cioè di cui non faccio il nome, ce ne sono poche, però diciamo che la caratteristica è quello che noi cerchiamo di dare, il servizio migliore che Travel Single cerca di dare, è strutture senza bambini e famiglie, perché i single non vogliono trovarsi nel villaggione, e ce ne sono tantissimi, con passeggini, baby club, la confusione, i bambini che tirano la sabbia, la caciara. Ecco, noi cerchiamo strutture per adulti, l'abbiamo trovate anche all'estero. Ah, l'avete trovata anche all'estero. Ma è una cosa importantissima, dare strutture per adulti, ci sono in Italia, sono pochissime le strutture. Quindi, per adulti. Quindi, per esempio, in questi viaggi, io prenoto un viaggio all'estero con voi, voi mi dividete per fascia d'età e mi date una camera con un'altra persona dello stesso sesso. Chi non vuole pagare il supplemento singola, che poi non siamo noi a deciderlo, perché sono le strutture, ci può essere una struttura che ti applica un supplemento ridicolo, 15 euro a notte, ci sono delle strutture che ti chiedono 40 a notte. Lei dice, ci sono anche dei single che vogliono sì viaggiare in un gruppo, però vogliono poi dormire anche da soli. Quindi no, certo, ma diciamo è molto variegato, è molto variegato. Il single è molto variegato, cioè il single timido che vuole essere messo in doppia perché fa amicizia più velocemente, si scioglie, oppure c'è il single più disinvolto che vuole assolutamente la singola perché magari prevede di fare amicizia e portare qualcuno in camera. E non essere single per una sera. È molto vario il mercato. Assolutamente. Gianna Schelotto, ecco, abbiamo sentito, quindi c'è questa psicologa e psicoterapeuta della coppia, c'è questa possibilità che poi si va in vacanza single e magari si ritorna in coppia, o viceversa, si va in vacanza in coppia e si ritorna single. È così? Sì, è abbastanza, però la cosa che io cerco sempre di passare ai single, sia a quelli che vengono in studio da me, sia agli amici, è quella di non partire mai con l'idea che questa vacanza risolverà i propri problemi. Cioè la vacanza per riuscire deve essere vacanza, cioè vuoto, ecco, e non il tentativo di riempirla di tutte le cose che ci lasciano insoddisfatti durante l'anno. Allora è possibile che ci sia l'incontro fatale, che nascano nuovi sentimenti, nuove emozioni, ma il vero single, diciamo quelli gli ultimi, soprattutto le ultime single che stiamo vedendo, quelle hanno capito che non bisogna mettere nella vacanza più di quello che una vacanza può dare, quindi lasciare a casa lo zaino delle aspettative amorose. Lasciare, questo è bellissimo, con questo chiudiamo, perché Gianna Schelotto ci ha dato lasciare a casa, ma sia per i single sia per chi viaggia in coppia, in famiglia, lasciare a casa lo zaino dell'aspettativa e godersi la vacanza, come noi speriamo se la stanno godendo in questo momento molti connazionali. E volevamo capire, Simona Tedesco, dove vanno gli italiani in vacanza quest'estate, a parte che in Italia? A parte che in Italia sono sicuramente, quindi Italia a parte del leone, ma per quanto riguarda le mete in grandi, come dire, ci sono delle impennate sulle mete europee, sulle capitali, nonostante la paura terrorismo, in realtà città come Barcellona, come Londra sono comunque ancora molto richieste. Ovviamente sull'estero mare Grecia, Spagna. La Grecia quest'anno ha comunque anche la Spagna, anche le isole della Croazia, per rimanere qui vicino a noi, e poi comunque ancora Stati Uniti che continuano sicuramente ad avere un aspetto importante nella scelta degli italiani. E quindi queste sono un pochino le tendenze, quindi ovviamente tutti chiusi, quelli che erano i mari del Mediterraneo coinvolti o meno nei conflitti, però nonostante, ripeto, questa chiusura dovuta alla paura del terrorismo che ha tenuto e tiene in Italia e fa anche arrivare gli stranieri in Italia, perché tenete presente che l'incoming tourism è proprio questo fenomeno di anche i tedeschi piuttosto che gli inglesi, che non possono più andare in Egitto, scelgono il mare Mediterraneo, scelgono il nostro paese. Monica, il nostro paese insomma sta andando alla grande. Monica Pellicioni, titolare sempre di Travels. Volevo fare una domanda perché sì, ce la fa un radioascoltatore e siamo in chiusura. Ci sono anche single col figli che si troverebbero bene nei villaggi dove ci sono anche i ragazzi. Ecco, voi organizzate anche vacanze? L'abbiamo organizzato, però si tratta di una nicchia. Diciamo che il 90% dei nostri clienti sono clienti single che non vogliono trovarsi con bambini. Poi c'è una nicchia di genitori single per cui organizziamo degli eventi. Quindi, perché magari i genitori si incontrano, servono comunque due animatori, uno per gli adulti e uno per i bambini. È un po' più complicato. Allora io ringrazio Simona Tedesco, direttore di Dove, Gianna Schelotto, scrittrice, psicologa, psicoterapeuta, ricordiamo il suo libro Chiama non sa di Rizzoli, e Monica Pellicioni, titolare di Travel Single. Lo potete trovare www.travelsingle.it. Vi do appuntamento a domani, dopo aver ringraziato la mia splendida redazione, e sono Silvi Boccaletti, Alessandro Longoni, Massimiliano Lollis. Vi do appuntamento domani 8:15. Linea AGR.